Parliamo della quarta ondata della pandemia che colpisce tutta Europa, al punto che il direttore dell'OMS Europa ha parlato di una nuova tempesta che sta arrivando, e noi cerchiamo di capire intanto che dimensioni ha nei diversi paesi europei e poi come questi paesi europei si stanno attrezzando per fronteggiarla, soprattutto nel periodo natalizio. Cominciamo dalla Germania, noi siamo al telefono con Alessandro Ricci, che saluto, buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Allora, come sta andando la pandemia, questa quarta ondata in Germania? Allora, in Germania possiamo dire che i casi stanno diminuendo. Comunque, ieri ci sono stati circa 38.000 casi rispetto ai 75.000 di metà a fine novembre. Comunque è una chiara diminuzione. Diciamo che su base settimanale i casi sono diminuiti di circa il 21%. Quindi diciamo che il virus sta un po' arretrando. Però ieri, in un incontro tra il governo e i ministri presidenti dei diversi Länder, sono state prese delle nuove decisioni. Le nuove decisioni le potremmo ricondurre un po' a questo slogan: salvare il Natale, chiudere Capodanno. Che cosa significa? Significa che al momento non ci sarà un lockdown, anche se il ministro della salute Karl Lauterbach non lo esclude nel futuro, diciamo anche un futuro prossimo. Però al più tardi dal 28 dicembre, ma comunque dopo Natale, verranno fortemente limitati gli incontri privati a meno di 10 persone, verranno chiuse le discoteche, gli eventi grandi, quindi gli eventi sportivi, saranno senza spettatori. Inoltre c'è un consiglio da parte del governo di effettuare un test prima di incontrare altre persone, in particolare gli anziani. Cosa importantissima, queste regole varranno per tutti, non solo per i non vaccinati, ma anche per guariti e vaccinati. Inoltre ieri il cancelliere Scholz ha anche invitato la popolazione a vaccinarsi. Comunque la Germania vede il 70,4% circa della popolazione completamente vaccinata. È un dato ancora piuttosto basso, se ne è discusso molto nelle scorse settimane. Ma c'è anche un'altra notizia, sempre del cancelliere Scholz, che ieri ha dichiarato che non esclude l'introduzione di una vaccinazione obbligatoria. Non se ne parlerà molto probabilmente ora nello specifico, ma si dovrebbe tornare a parlarne nel 2022, quindi ecco, fra qualche settimana. E inoltre è arrivata anche la notizia della STIKO, la commissione permanente sulle vaccinazioni, che diciamo ha dato il via libera alla terza dose già dopo 3 mesi dalla seconda, o nel caso di Johnson & Johnson dalla prima. Quindi ecco, il virus sta arretrando, ma dall'altra parte la Germania inizia a chiudersi. Questo perché? Perché a livello politico diciamo che il nuovo governo è entrato in carica l'8 dicembre dicendo che non voleva ripetere gli errori dello scorso governo, non voleva mettere paura alla popolazione, quindi è entrato in carica parlando con tranquillità, cercando di infondere tranquillità nella popolazione. Poi adesso è entrato in modalità emergenza. Quello che si cerca di fare molto probabilmente è una sorta di prevenzione, cioè non arrivare all'ultimo, come è stato spesso fatto dall'ultimo governo, diciamo. Ecco, la Germania all'inizio aveva gestito, possiamo dire, forse anche per un po' di fortuna, la pandemia durante la prima ondata. Poi abbiamo visto che nella seconda, terza, quarta ondata sembrava un po' che la politica rincorresse il virus, non fosse capace di prevedere, per quanto sia poi difficile effettivamente prevedere le mosse di un virus sconosciuto. E quindi di conseguenza adesso quello che sta cercando di fare, almeno a quanto pare, il governo è quello di prevenire una nuova ondata che potrebbe arrivare forte già a inizio gennaio, metà gennaio, e dovuta alla variante Omicron, che secondo gli studi sarebbe più contagiosa della variante Delta. Comunque 75.000 casi di novembre erano, perlomeno secondo il sequenziamento dei test, erano contagi dovuti alla variante Delta. Quindi la variante Omicron rappresenta ancora un numero esiguo dei contagi che ci sono al momento. Questi sono ancora dovuti alla variante Delta. Torno un attimo alla sintesi che hai fatto prima sul salvare il Natale e chiudere Capodanno, perché è un po' il dibattito che forse in modo un po' più arretrato si sta sviluppando in Italia, ma la sensazione è che si arrivi a una decisione simile anche nel nostro paese. E quanto, a tuo avviso, fondo questo tentativo di salvare il Natale ha a che fare anche con la questione economica, no? Dell'economia che ovviamente con la pandemia ha subito un forte contraccolpo in tutto il mondo. Senza dubbio ha un peso, però c'è da dire anche un'altra cosa, che a differenza dell'Italia, in Germania al momento per entrare nei negozi, ovviamente negozi non di beni di prima necessità, quindi escludiamo supermercati e farmacie, c'è bisogno di essere vaccinati o guariti. Di conseguenza già una larga fetta di popolazione è stata esclusa dallo shopping natalizio, ecco, quindi oltre dallo shopping natalizio, sempre in Germania comunque non è possibile andare a ristorante, in un bar o in un pub se non si è vaccinati o guariti. Alcune volte c'è bisogno anche di un test oltre alla vaccinazione, quindi la cosiddetta regola 2G+, ossia genesene un geimpft, ossia vaccinati e guariti più il test. Quindi diciamo che la Germania ha già ristretto un bel po', alcune leggi sono un po' più restrittive dell'Italia, quindi ecco, una buona fetta di popolazione è stata già esclusa dal shopping natalizio, da comunque dal pranzo di Natale ed altre cose. Quindi senza dubbio comunque ha un valore anche dal punto di vista economico, però poi se pensiamo un po' al valore economico, comunque anche il Capodanno rappresenta una fetta importante anche per l'economia della Germania. Diciamo forse è vista più come una cosa per far riunire le famiglie, perché secondo Scholz, secondo l'Expertenrat del Covid, ossia il consiglio degli esperti sul Covid che è stato istituito proprio in questa legislatura, secondo questi studiosi il Pasqua e Natale non sono degli eventi che portano, diciamo, ad un innalzamento così importante dei contagi, mentre Capodanno è visto forse perché è più festoso, per altre motivazioni, visto come un evento che può creare dei cluster più grandi. Io ti ringrazio e ti auguro buon lavoro. Grazie mille Alessandro, buona giornata, buon lavoro a voi.